Fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da parte di Filippo Roma devo subito far partire immediatamente la rubrica Fuori amore. Così, subito, allora. Subito, al volo, subito, Fuori amore. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price. Che bel momento, Per me sì. Per me non ce la faccio più, però ho dovuto aprire questo momento Fuori amore, Umberto, perché devo dirti una cosa. Hai rimorchiato. Cioè, ho rimorchiato. Ma lei, la mia ex, sì, c'è scritto? Non ha scritto la tua ex. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, per chi non lo sapesse, ma penso ormai siete rimasti in pochi. Umberto ha avuto una storia d'amore lunga e tormentata e purtroppo è stato abbandonato, è stato lasciato e sta soffrendo come un cane. E sto cercando di riconquistarla attraverso questo programma. Sì, per ora il risultato è totalmente fallimentare. Anzi, approfitto per lanciarle un bacio. Mua. Devo dire che è sempre molto commovente e toccante questo momento. Però vabbè, dai, ho rimorchiato chi? Hai rimorchiato Antonella da Cesena, che scrive questa cosa: Umberto, ti adoro. Grazie Antonella. Antonella, non so come fai, forse il sole, diciamo, ti ha bruciato il cervello. Sì, però col scrive caldo, così. Sai. Sì, sì, succede. Umberto, ti adoro. Trovare oggi un uomo romantico come sei tu è diventato impossibile. Perdona la mia sfrontatezza, ma mi voglio offrire come cura per il tuo mal d'amore. Caspita, Antonella è bella lanciata, no? Lanciatissima. Io ringrazio Antonella, ma come saprai e come saprete, no? Quando uno è innamorato, no? Non c'è donna che tenga, no? Non c'è Belen che tenga, no? Sì, tu sì, per esempio, non c'è, no? Belen che tenga. Se, no? Non c'è Belen che tenga. Tu per esempio, da uomo sposato e innamorato, certo. No? Se ti dovesse fare la corte Belen, sì, tu che faresti? Cedo subito. Subito cedo. Cioè, dovevi dire no, la rifiuterei, no, io amo mia moglie. Sai che vuol dire subito? Subito. Ma caro Filippo, è inutile, tanto Belen non ti cerca. Poi Cristiana, tua moglie, la tua moglie attuale, non so per quanto ancora, dice che hai un'ansia sessuale, quindi... E qui, cioè, smentisco ulteriormente perché mi sta facendo una pubblicità negativissima. Quindi al massimo puoi stare qua con me in radio e basta. Mamma mia, che condanna, che condanna. Comunque, Fuori amore a parte, di che parliamo oggi? Apriamo con un argomento serio, no? E cambiamo registro. Sì, oggi parliamo di un argomento molto serio che pochi conoscono forse, che è la tratta delle trans. Cos'è? È una forma di sfruttamento molto grave a danno di queste trans che partono dal Brasile verso l'Europa, verso l'Italia, nella speranza di fare lavori come ad esempio parrucchiere o d'altro, e invece vengono portate in Italia, ingannate. Nel momento in cui giungono nella città di destinazione gli viene sottratto il passaporto, gli viene richiesto un riscatto in media di 15-20 mila euro e vengono buttate sulla strada obbligatoriamente, e se si ribellano vengono malmenate e minacciate affinché poi guadagnino i soldi da dare ai loro aguzzini. E quindi sono costrette a prostituirsi, sono, no? Sono costrette alla prostituzione. È un fenomeno che conoscevamo, no, per le prostitute, ma invece a quanto pare è molto diffuso anche per i trans. Ricordiamo che dietro tutto questo c'è la malavita organizzata e c'è un giro di milioni e milioni di euro, no? Sì, sono volumi di soldi pazzeschi, no? Tantissimi soldi. E caro Filippo, quella che hai raccontato è la storia di Deborah, che è venuta qui in Italia con la promessa di fare un lavoro normale, no? Di fare la parrucchiera, e di punto in bianco, appena arrivata il giorno dopo, si è trovata a battere uno dei tanti marciapiedi, obbligata da un'associazione malavitosa. E Deborah oggi ha scelto di essere qui con noi per raccontarci la sua storia. Oh, Deborah, tu sei una transessuale, giusto? Sono una donna transessuale. Una donna transessuale. Ecco, quando inizia e come inizia la tua storia? Allora, mi capita che nel 2004 sono stata contattata da una mia amica transessuale che viveva in Italia da diversi anni. E praticamente questo qua mi aveva offerto un posto di lavoro come parrucchiera in un suo negozio che si trovava nelle regioni di Modena. Sì. Eravamo grandissime amiche, cioè un'amicizia da anni, da quando eravamo piccine. Io mi fidavo talmente di lei che a me non mi sembrava vero, certo, ricevere quella proposta di venire a lavorare in un negozio di parrucchieri in Italia. E poi che è successo? E poi è successo che quando lei mi ha mandato soldi per l'aereo per poter venire in Italia, sono stata contattata da un'altra persona e praticamente da São Paulo questa qua mi ha messo in un aereo insieme a altre due o tre ragazze, dicendo che io dovevo fare il viaggio insieme a loro per non fare da sola, che anche loro dovevano venire qua. Quindi altre ragazze transessuali? sempre i transessuali che venivano qua, però tutte e tre eravamo, cioè, ognuna con una proposta diversa di lavoro. A me, lì per lì ho cominciato a dire, ma come mai siamo in tre? Già, ti sembrava già strana, insomma, questa cosa. Sì. E una volta che sei arrivata in Italia, poi cosa è successo? Una volta che siamo arrivati in Italia, ci siamo divisi, ognuno ha preso una destinazione. Io praticamente sono venuta a Modena, dove c'era questa mia amica. Sì. Con l'indirizzo, ho preso un taxi, che me l'ha riportato lì, in questa casa. E quando arrivai, era una casa grande, a due piani, però che c'erano altre 20 persone transessuali, sempre di origine brasiliana, che vivevano lì in questa casa. Quindi, quindi eravate 22 transessuali in una casa? In una casa, sì. Ah. Quindi ricapitoliamo, tu sei arrivata in Italia con la promessa di lavorare in un negozio di parrucchiera, invece sì, ti sei trovata in una casa, in un appartamento con altre 22 transessuali, giusto? Perfetto. E poi hai cominciato a fare la parrucchiera oppure no? No, quando sono arrivata lì, una delle trans più vecchie, la più anziana della casa, cioè la che comandava, mi ha preso, mi ha portato nella sua stanza, che lei non condivideva con nessuna, e mi ha spiegato che lì sono venuta in Italia qui per lavorare, però il lavoro che dovevo fare era quello della strada, di prostituzione, e che praticamente avevo un debito con loro di 14.000 euro. E tu cosa gli hai risposto? Non hai detto, beh, io sono qui per fare la parrucchiera, non per fare la prostituta. Sì, io ho chiesto di chiamare prima in Brasile per chiarire un po' la situazione con la mia famiglia, per dire che stavo ritornando. Però non mi è stato concesso di fare una chiamata, anzi mi hanno preso subito il passaporto, me l'hanno sequestrato, per modo di dire, il mio passaporto. E niente, mi ha detto che dovevo stare lì massimo minimo un anno, dove dovevo pagare questo debito con loro, più 2.000 euro di aereo, e alla fine erano 16.000 euro. E se tu ti fossi rifiutata, cosa ti avrebbero fatto? Non potevo fare, perché il tono con cui me l'hanno spiegato questa situazione era minaccioso, era nel senso di che ora sei qui, sei in trappola, non c'ha come chiedere aiuto, anche perché era appena arrivata, non conoscevo la lingua, non conoscevo niente. Quindi all'improvviso ti sei trovata a essere una schiava? Sequestrata? E praticamente sequestrata, sì. E ti picchiavano? Non sono arrivata a questo punto, però tutta la mia permanenza in quella casa gli ho ricevuto vari tipi di minacce, sia fisiche, psicologiche, riti di macumba, sono riti che lavorano i brasiliani, no? Per fare dei mali alle persone. Ti hanno detto praticamente, se non ti prostituisci ti facciamo la macumba a te e ai tuoi familiari, giusto? Sì, più o meno, non proprio così, più o meno così, che loro hanno diversi tipi di fare male a una persona, non solo fisicamente, ma anche con la magia nera, perché una delle capocce del gruppo ha un centro spirito che lavora come macumba, un grande centro spirito dove fanno rituali, fanno... E quindi immagino che tu avessi, Deborah, molta, molta paura, no? Più che altro fisicamente in Brasile, nel senso che potevano fare qualcosa ai miei familiari. E quindi tu sei stata costretta a quel punto a prostituirti, no? Sì, praticamente del secondo giorno. Cioè tu già dal secondo giorno stavi in strada? Sì. Senza sapere la lingua, senza conoscere niente, mi hanno messo in una strada buia con altre persone sparse qua in là che facevano la stessa cosa. Senti, ti ricordi la prima volta che sei stata costretta a prostituirti? Sì, è stato orrendo. Io ho pianto tutta la notte, sono stata in strada e non sono riuscita a montare in nessuna macchina. Una perché non conoscevo la lingua, l'altra perché avevo paura. E niente, quindi dal secondo giorno, dal primo giorno quando sono rientrata a casa, che non avevo già soldi, lì è cominciato ancora di più le minacce, perché dovevo rientrare con minimo 150 euro. Ah, tu eri obbligata a portare a casa 150 euro? Almeno al giorno? Almeno al giorno. E quante ore dovevi stare per strada a prostituirti? Se partivo di casa verso l'8 di sera, e se poteva rientrare fino alle, dalle 4 del mattino fino alle 6. Senti, qual è il ricordo più brutto che hai di quelle notti passate in strada? Mi ricordo una sera in particolare che era d'inverno, era freddo, era alle 3 del mattino e avevo fame e mi sono rivolta a un paninario per mangiare un panino. Mentre ero lì seduta che aspettavo che mi portasse il panino, vide arrivare uno delle mie papone, cioè quella con cui stavo in casa, che si occupava di tutto, e cominciò a picchiarmi lì davanti a tutti. Mi ha preso una seggia e me l'ha tirata addosso. Perché non voleva che tu perdessi tempo a mangiare, no? Ma dovevi prostituirti. Perché non si poteva assolutamente toccare a fare altro, a non essere lì in piedi in strada a aspettare che... E dopo che ti ha picchiato, tu sei dovuta tornare di nuovo in strada a battere, a prostituirti? Quella sera stessa no, sono tornata a casa. Ma il giorno dopo sì. E per quanto tempo è andata avanti questa vita? Per 2 anni. È stato un incubo per te? Sì, è stato il peggio pesadello che una persona può avere nella vita. Non hai mai pensato di denunciare i tuoi aguzzini, cioè di denunciarli alla polizia, alle forze dell'ordine? Non immaginavo che fosse possibile. Pensavo, perché oltretutto avevo anche la paura di forze dell'ordine, perché ero clandestina. Senti, in quei giorni difficili, no? In quelle notti, hai mai pensato di farla finita? Ci ho provato anche. Capisco che è difficile, ti va di raccontarcelo? Niente, praticamente un giorno che stavo male, ero stanca, mi sono tagliata i polsi perché non ce la facevo più. Però come ti sei salvata? Non sono arrivata fino in fondo perché ho pensato prima di tutto in quel momento lì alla mia mamma. Senti, Deborah, per fortuna tu adesso sei uscita da questa tratta dei trans, no? Da questa forma di schiavitù. Sì. Grazie all'aiuto di una persona, giusto? Sì, soprattutto a mio compagno, con cui ci sto ancora tuttora. Perché è stato un tuo cliente a salvarti? Sì, è stato lui che ho conosciuto come cliente e che piano piano ci siamo innamorati e siamo stati insieme. Quindi il paradosso è stato che a salvarti è stato un tuo cliente, uno che prima ti pagava, invece poi si è innamorato di te e ti ha portato via, no, da questa forma, sì, di schiavitù. Diciamo che nell'infortuna ho avuto la fortuna di conoscere lui. Senti, e oggi cosa fai nella vita? Niente, oggi lavoro come parrucchiera in un negozio, mi sposerò con lui ora, perché dopo tutto ho avuto anche la fortuna di poter fare una nuova vita, di fare l'intervento. Ora, tutti gli effetti, sono una donna e il mio desiderio è quello di fare famiglia insieme a lui e lavorare onestamente, cioè avere un lavoro dove ho voglia di andare a lavorare, non dove sono costretta. Grazie Deborah, grazie per aver raccontato la tua storia. Sappiamo che non è stato facile, non è facile tuttora, perché certi ricordi non è facile cancellarli, no Filippo? No, veramente, grazie. Non è facile cancellare e uno dei motivi per cui io ho accettato di dare questa intervista, perché lo so che in strada ci sono ancora tante ragazze che magari hanno bisogno, che non lo sanno che si possono uscire, perché mica tutti sono lì perché hanno voglia, tante, ma tante sono costrette a essere lì. Quindi magari sentendo questa mia storia possono avere il coraggio anche di ribellarsi, poter dire no e trovare una via di uscita, perché se si ha voglia si può. Speriamo Deborah, grazie tantissime, veramente grazie tantissime per la tua testimonianza, grazie Deborah. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Grazie Deborah, e certe parole, certi racconti non ti lasciano veramente senza fiato, senza parole. Anche se per fortuna alla fine a Deborah è andata bene, perché ha saputo chiedere aiuto alla persona giusta, insomma, sì, è riuscito a tirarsi fuori da questa schiavitù. Questa schiavitù che genera un business di milioni di euro, no? Hai sentito Deborah, diceva io ero costretta a guadagnare almeno 150 euro al giorno, se lo moltiplichi per tutti i trans che sono oggetto di questa schiavitù, sì, fatti un po' i conti. Sono montagne di soldi. Per fortuna Deborah e tante altre trans come lei vengono aiutate da Carmen Bertolazzi. Cosa fa Carmen Bertolazzi? Carmen ha un'associazione che si occupa di aiutare le persone in difficoltà, proprio come Deborah. Ci sei, Carmen? Sì, ci sono. Grazie di essere anche a Radio 24. Sempre, anche qui sempre di tratta si parla, perché siamo al confine con l'Eritrea, quindi, come si sa, anche da qui le persone partono per essere poi trattate, portate in Libia, poi messe sulle barche, le storie le conosciamo. Quindi. Abbiamo appena avuto nostra ospite Deborah, che ci ha raccontato la sua odissea e il suo dramma. Tu hai cercato di aiutarla, no? Sì, ho cercato di aiutare, come tante altre persone trans, all'interno di un progetto del Dipartimento delle Pari Opportunità Italiane, il governo italiano, come dire, promuove dei progetti per applicare una norma di legge di cui, come dire, noi siamo stati gli antesignani in Europa, cioè all'interno della legge sull'immigrazione c'è un articolo per cui le persone vittime di tratta e di sfruttamento riescono ad uscire da questa situazione ed entrare in un progetto di protezione sociale, possono essere sostenute e poi anche le permesse previsto una possibilità di integrarsi nella nostra società con un permesso di soggiorno permanente. Carmen, chi sono le persone che gestiscono questo traffico? Che organizzazioni ci sono dietro? Allora, la storia della, diciamo, della tratta delle persone transessuali ha una storia completamente diversa da tutte le altre nazionalità, cioè gli albanesi, le rumene, le nigeriane. E le trans venivano, come dire, già negli anni 50-60, ambivano molto a venire in Italia come in Francia, un po' perché il mondo dello spettacolo, il mondo della moda, insomma, era come il paese più ambito, e anche perché nei loro paesi, per esempio il Brasile, c'era una grossa persecuzione, quindi rischiavano di essere ammazzate. E allora, a quell'epoca, venivano in Italia grazie al sostegno delle più navigate, delle più vecchie, che davano a loro i soldi per partire, qualche indirizzo, e in cambio chiedevano quello che si chiama in gergo il regalo, insomma, diciamo, una commissione percentuale. Una commissione, diciamo. Una commissione, esattamente, una commissione, e questo era. Poi, con l'imporsi del fenomeno della tratta di esseri umani a livello globale, anche questi viaggi delle persone transessuali sono diventata tratta e quindi sono finite nelle mani dei grandi trafficanti di esseri umani del mondo. Quindi oggi le persone trans partono dal Brasile, c'è un arruolamento organizzato in Brasile per poi arrivare direttamente in Italia o in paesi dell'est, e qui poi ci sono altre organizzazioni locali, anche italiane, che poi le portano in Italia, dove ci sono le case, dove vengono tenute schiave, dove... Ecco, infatti la cosa che ci ha impressionato di più è proprio il fatto di riduzione in schiavitù. Esattamente, perché loro ovviamente vengono con delle promesse, con delle idee, con degli immaginari, e invece poi trovano questa situazione che molto spesso dipende poi da dove ci finisce, ma nella maggior parte dei casi è proprio di schiavitù nel senso vero della parola. Ecco, come possono fare per ribellarsi a questa schiavitù? Beh, sicuramente non è facile, perché c'è la paura, gli tolgono i documenti, i ricatti con le famiglie. Quali sono i ricatti con le famiglie dei trans? Perché ammazzano le famiglie se loro tradiscono, se loro se ne vanno, se loro non pagano, quindi minacce di morte. Cioè che ammazzano proprio i familiari, quindi? Sì. Questi sono trafficanti, se immagino, senza scrupoli, no? Gli appartamenti, per noi associazione è molto difficile ovviamente scoprirle, lì è un lavoro delle forze dell'ordine che hanno notizie di questi appartamenti dove ci si prostituisce, quindi fanno delle irruzioni. Se invece lavorano per strada è più facile, perché vi sono molte altre associazioni che fanno delle unità di strada, quindi le contattano e le spiegano anche che c'è la possibilità di ribellarsi e di uscire da quel giro. Un'altra strada, sembra un po' paradossale, però spesso è così, sono i clienti. Poi il cliente si innamora in questo caso. Anche che non si innamora, ma molto spesso i clienti ormai no, però tante volte non sanno, non fanno finta di sapere. Poi quando sentono le storie di queste persone capiscono che insomma non è una cosa giusta, non è una cosa corretta, e quindi spesso le aiutano a mettersi in contatto con noi, oppure sì, ci sono, si innamorano, nascono delle relazioni e allora cercano di aiutarle a uscire. È un paradosso, no? Proprio chi sfrutta questo mercato, no? In qualche caso può aiutarli a uscire da questo stato di schiavitù. Beh sì, infatti noi abbiamo sempre, noi associazioni abbiamo detto che bisogna, come dire, nella lotta contro i trafficanti, che sono molto organizzati, hanno grandi strategie, bisogna, come dire, cercare il più possibile tutte le alleanze, quindi anche i clienti, anche i fidanzati, anche uomini che si innamorano, comunque se ci possono aiutare a portarli via da questa situazione, noi li ascoltiamo, li sentiamo, e ai numeri verdi sono molti gli uomini che chiamano. Ecco, poi quando queste trans riescono ad affrancarsi da questa schiavitù, la loro vita diventa normale oppure i trafficanti continuano a perseguitarle? No, allora io l'esperienza, vabbè, ovviamente indico loro e obbligo loro a non tenere nessun contatto con tutto l'ambiente di prima. Personalmente non ho mai avuto in tutti questi anni grandi minacce dei trafficanti, anche perché le sostituiscono velocemente. Al massimo le minacciano di non fare i loro nomi, di oppure dare delle informazioni, delle descrizioni diverse dei loro sfruttatori, in modo che non possono essere inquisite. Carmen, grazie mille, noi ti salutiamo e continua con il tuo prezioso operato. Buon lavoro sempre in prima linea, mi raccomando. Va bene, grazie. Grazie a Carmen Bertolazzi che ci ha raccontato un fenomeno che ben pochi conoscono, che è quello della tratta delle trans, no Umberto? Quei trans che vediamo tutti i giorni nelle strade delle città italiane, pochi sanno che sono oggetto di una vera e propria tratta, di una vera e propria schiavitù e sfruttamento. Sì, perché questo business genera milioni di euro, no? Un fatturato molto molto alto, cioè le trans valgono oro. Noi ci fermiamo solo per qualche minuto, ma torniamo qui tra pochissimo ai Fuori Posto su Radio 24. Fuori Posto. Eccoci qua, è arrivato un momento molto particolare, no? Il nostro momento del radio reality, il primo radio reality della in storia. Italia, no? Il primo in assoluto, siamo dei pionieri. Siamo gli autori, no, di questa grandissima idea, di questo grandissimo format. E caro Filippo, il primo radio reality ce l'abbiamo solo noi di Radio 24 e dei Fuori Posto. E per questo io e te passeremo la storia della radiofonia nazionale, lo sai? Dici? Sì. Ma io non c'ho tanto. Decide no, no, ma mi no, sa no, effettivamente. No, secondo me no. Però andiamo avanti. Filippo, in cosa consiste questo radio reality? Allora, noi stiamo selezionando delle aspiranti corteggiatrici che devono dimostrare di essere all'altezza del proprio ruolo corteggiando proprio me. Quindi di volta in volta si sfidano due ragazze, una che è quella che ha, diciamo, il titolo in mano, che è la nostra campionessa in carica, e l'altra che è la sfidante. Ed è una sfida veramente all'ultimo colpo, tremenda. Sì, sì, sì. Ed è una prova ardua, perché spieghiamolo, le corteggiatrici, no? Non devono corteggiare, che ne so, Raul Bova, Brad Pitt, no? Devono corteggiare te. Che vorresti dire? Che non sei proprio Costantino il tronista, ma sei, somigli più a Costantino della Gherardesca, no? Ma guarda, non ti permette, sono molto meglio di Costantino. Sì, ma non sì, come no. L'altro. Quindi, allora, nella scorsa puntata del nostro Radio Reality abbiamo ospitato due aspiranti, no? Due aspiranti corteggiatrici, sì, che erano, sì, Giada, sì, e Silvia. Giada e Silvia. Allora, ricordiamoci, per chi si fosse perso questa fantastica puntata. Anche se è perso, mamma mia. Allora, Giada era lei. Ma cosa pensi, già la prima esterna a portartela a letto? Vergognati. E Silvia era lei. Ma Giada, ma se tu sei andata anche da un altro, scusa, manco eri venuta per lui. Ok, queste due ragazze si sono scontrate. Sì. C'è stato uno scontro molto duro. Durissimo, devo dire, veramente uno scontro. Si sono attaccate ferocemente, sì, l'una contro l'altra. Ti hanno corteggiato, giusto? Sì, ognuna, diciamo, ha fatto del suo. Ognuna si è dimostrata abbastanza interessante. E tant'è che per me è stato veramente molto complicato, allora, poi scegliere, sì, e decidere. Però, insomma, bando alle ciance, caro Filippo, adesso è arrivato per te il momento della scelta. Sì, allora. Prenditi ancora qualche istante di tempo. Ricordati che queste due ragazze. Una scelta durissima. Si sono difficile. Spese al 100%. So, infatti, per questo che dura quella scelta. Ti hanno corteggiato. E adesso solo una delle due proseguirà il suo cammino cazzo, non ce la faccio a dire. Cioè, il suo cammino verso di te è una cosa, è una punizione, cazzo, non è un premio. È però, una fortuna. Insomma, che punizione. Però, è una insomma, fortuna. Torno serio. Adesso solamente una delle due potrà sperare in una famosa esterna. Allora, sì, dai. Caro Filippo, chi è la vincitrice tra Giada e Silvia? Silvia! Incredibile! Ebbene sì, è stata durissima la scelta, ma alla fine ho deciso per Silvia. Ok, quindi da cavaliere quale sei, anzi quale non sei, facciamo un saluto a Giada. Sì, Giada, sei stata comunque carinissima, ho apprezzato molto il tuo corteggiamento, ma Silvia è stata più convincente, mi dispiace. E Silvia oggi è qui con noi! Ciao a tutti, oddio, adoro! Sei contenta, Silvia? Sono contentissima, un bacione Filippo, ciao Umberto, un bacione a tutti. Grazie. Allora, sei contenta di questa scelta? Te l'aspettavi innanzitutto? No, oh, guarda, ho pregato pure alla Madonna in tutte le lingue del pure mondo. Pure alla Madonna! Pure alla Madonna. Questo accento un po' pugliese, barese che mi ha ispirato poi alla fine. Senti, Silvia, sì? Dici la verità, cosa ti ha colpito di Filippo? Beh, innanzitutto la voce, come avevo detto già nella scorsa puntata, e poi la sua voglia di andare già oltre. Voglia di che? Di andare oltre? Di andare molto oltre. Lui già vede oltre alla persona. Sì, ma lo so io che... Oltre, te lo assicuro. Lo so io che vede oltre, Filippo. Cioè, insomma, lui da noto maniaco sessuale... No, io sono un romanticone, io vedo oltre l'orizzonte dell'amore. Senti, allora, Silvia, ricordaci live, per chi si fosse perso la scorsa puntata del nostro Radio Reality, quali sono i valori importanti della vita per te? Allora, diventare famosissima, avere tantissimi amici VIP, soldi, fama e lavorare, ma lavorare nello spettacolo, solo spettacolo, pane e spettacolo. Valori profondi, no? Certo. Allora, Silvia... Hai superato una prova, no? Devo dire molto forte, perché corteggiare Filippo non è da tutti, no? Insomma, ed è da pochi riuscirci. È da pochi, sì, molto pochi. Da poche pochissime sono quelle che ti corteggiano. Ma che c'è? Guarda qui sotto, a me nessuno. All'uscita di Radio 24, qui a Via Monterosa, c'è un nugolo di fan, di ragazze che mi stanno aspettando. No, quelle non sono ragazze che ti aspettano, quelle chiedono i soldi. Però lasciamo stare. Comunque, detto ciò, Silvia, hai superato una prova, ma il tuo cammino non finisce qui. Brava. Però è carica, brava, mi piace, Silvia, che è carica. Tu sei disposta a tutto pur di andare in esterna con Filippo? A tutto, anche a camminare sulle pietre che scottano. Brava. Allora, detto ciò, c'è una sfidante. C'è una sfidante, sì, molto agguerrita anche lei. Come si chiama? Si chiama Letizia, ha origini campane. Mi piacciono le campane. Ma non è in Campania. Dove sta? Ci sei, Letizia? Sì, ciao. Ciao a tutti. Benvenuta al nostro Radio Reality. Ciao, Letizia. Ciao a tutti voi. Ciao a tutti quelli che mi seguono, a tutti quelli che mi ascoltano. Letizia, allora, cosa facevi ieri? Leggevi un libro? Eri a una mostra? Visitavi un museo? Dov'eri? No, tesoro, io ieri ero a Monte Carlo a prendere il sole su una terrazza fantastica e sorseggiavo uno champagne con le fragole che sono le mie preferite. Ah, hai capito? Sì, in costume, guarda, ci stava un amore veramente e mi sono divertita tanto. Hai capito, tutta Filippo? La giornata. Senti, sì, oggi ti aspetta. Sono stancata tanto. Senti, oggi ti aspetta una prova molto ardua. Devi corteggiare non proprio un Adone, non proprio un bronzo di Riace. Piano. No, vabbè, devo essere onesto con loro, cioè... Non è vero, io sono bellissimo, sono allora, alto, bello, allora, biondo, devi... ho i capelli ricci. Che bugiardo, è vecchio, con i denti un po' così. Non sono vecchio affatto, sono l'uomo più desiderabile dell'Italia. Oggi, cara Letizia, devi corteggiare Filippo. Ma prima... Prima di corteggiare Filippo, faccio una domanda che faccio sempre, che ormai è di rito. Quali sono i valori fondamentali per te? Ma sicuramente la famosità. Oh, voglio essere tanto famosità? Famosa. Sì, in tutto il mondo. Ah, tutto il mondo addirittura. Sì, tutto il mondo. È ambiziosa questa ragazza. Già questo mi piace. Allora, fai una cosa, corteggia Filippo. Immaginati Filippo mezzo nudo davanti a te. Vai, conquistalo. Sono qui, Letizia. Ciao Filippo. Ciao Letizia, come stai? Bene, mamma mia, ma che muscoli che hai! Ma non è vero, cioè, fa cagare il fisico di Filippo, è flaccido, bianco. Invece dice la verità, brava, già mi piace. No, sì, un po' di c'è dei muscoli. Poi? Però devi abbronzarti un pochino. È pallido, fa cagare Filippo. Senti, eh? Ma... Però c'è un bel segno del costume che ti mette in evidenza le anche. Senti Letizia, dove andiamo stasera? Dove mi porti? Dove mi porteresti? Ma stasera ti porto a cena. Sì, e poi? Ti porto a cena, poi facciamo un bel giro romantico. Dove? Vediamo al lago, andiamo al lago. Su ai laghi. Ma perché? Per buttarlo nel lago? Sul lago. Perché siamo un po' appartati, diciamo siamo io e te nel lago. Ma sì, perché comunque io ti devo conquistare, quindi mi voglio apportare con te. Bene. Ho un bisogno, bene, una necessità. Ah, dice, sì, senti, e poi che facciamo? Sono con te. Che facciamo poi e te nel lago? Ma io nel lago, noi ci baciamo sicuramente. Attenzione, passa subito all'attacco, eh? Mi piace Letizia, mi piace. Ti piace Letizia? Attenzione, come no? Silvia, come no? Ci sei? Ci sono. Hai visto che è Letizia è spudorata? Tutto. Guarda, è dura stavolta, Silvia, è molto dura, è per te. Mi spiace. Ma ce la posso fare. Allora, Silvia, devi combattere. Mi sto preparando con cattiveria. Con Letizia. Sappiatelo. Letizia, devi scontrarti con Silvia, che già una volta ha superato una prova, quindi te lo ricordo. Quindi, mm-hmm, al mio tre, insultatevi. 1, 2, 3. Allora, tu sei una falsa, sei una bastarda, ma ti senti? Sei una ma dove vuoi andare alla Zeca? Sei poveri? Vuoi andare alla Zeca? Ma aspetta, vai a fare un tiro, ma sei una di me. Quando ti ricordi? Ma sei una bugiarda. Di questo ti ringrazio, Umberto. Di questo ti ringrazio. È tutto un reality, quindi è tutto vero. Con i soldi del Monopoli. Ok, sono proprio incazzate. Ragazze, è sempre un gioco. Capisco che la posta in ballo è molto alta perché c'è Filippo. Bravi ragazzi, così mi piacete. Allora, ragazzi, mi piacete. Però fate a turno. Allora, in questo momento, Silvia, hai 10 secondi a disposizione per insultare Letizia. Cosa ti credi? Una diva? Sì, ma una diva fallita? Sei una falsa, sei una bugiarda. Ma ti senti, ma dovevo andare a Las Vegas dei poveri? Ma che cattiveria. Tu non hai capito proprio qua. A me piace Silvia, perché è vera verso di te. Sì. E poi adesso mi aspetto però da Letizia una grande risposta, un grande attacco nei confronti di Silvia. Aspetta Letizia, è il tuo momento, vai. Falsa, tu sei una falsa, dici solo falsità e sei una grandissima bugiarda. E dici veramente solo falsità, anche sul mio conto. E poi che credi? Di dover fare tutto tu, decidere tutto tu? Ma chi cazzo sei? Filippo lo voglio solo io. Silvia, rispondi, dici col cavolo, ti piacerebbe, ma Filippo è un buon partito e me lo prendo io. Ma tu sei solamente una diva di poveri, con quella bocca puoi fare solamente una cosa, punto. Attenzione, Letizia, rispondi, ti ha un'accusa pesante. Ma io con la bocca dirò, farò anche delle cose, però tu la tua posizione è sempre quella di 90. Attenzione, questa la censuriamo, qui stiamo trascendendo. Ricordiamoci che la nostra radio è una radio per tutti, no? Radio 24. Cioè, era una radio di professionisti. Comunque, capisco che per avermi queste donne Silvia, si accapiglino così. Silvia, minaccia di andartene, che fa sempre il suo effetto, Silvia. Filippo, guarda, se a te piacciono queste donnine da quattro soldi, queste dive fallite, io me ne vado. Attenzione, alta ragazze, stop al tempo. Cioè, è stata una lotta durissima fra le due, uno scontro veramente tremendo. Scontro tra titani, mia, no? Tra titane, e veramente questa volta è ancora peggio per me, Umberto. Allora, decidere, incredibile. Sì, allora, noi vi ringraziamo. Secondo voi, per chi ci sta ascoltando in questo momento, chi è più vera verso Filippo? Chi è che tra le due, tra Letizia e Silvia, nutre un sentimento vero, un sentimento d'amore verso Filippo? Scriveteci ai fuoriposto @radio24.it oppure lasciate un messaggio alla segreteria o per candidarvi o per esprimere un giudizio. La nostra segreteria telefonica è 0246524182 oppure WhatsApp al 349-2386-666. A questo punto, caro Umberto, io me ne vado perché devo andare a riflettere per decidere tra Silvia e Letizia. Sì, allora prenditi qualche minuto o forse anche qualche ora di pausa. Chiederei anche qualche giorno se fosse possibile. Va bene. Posso? Va bene. Grazie. È una scelta importante. È veramente, questa volta veramente difficile. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma tra pochissimo ritorniamo qui puntuali, sempre su Radio 24 ai Fuori Posto. Non ve ne andate, mi raccomando. I Fuori Posto. La canzone di un ladro, quella è la verità. Bello. La canzone di un ladro, proprio. Come la canzone di un ladro? Ma chi è questo? Sì, voi cominciate il programma mettendo la canzone di questo Mariuolo, ma di Famiglia Mia. Chi è che dice queste cose bravissime? Le canzoni da me, da Ciruzzo Tozzi e le Campia, e poi fa il successo. Ma Umberto, sono dichiarazioni gravissime queste. Guarda che rischi di beccarti una denuncia, eh? Una denuncia la faccio io a lui ci devo fare la denuncia, anzi una mazziata gli devo fare. Con la violenza non si risolve niente, quindi piano con le parole. Dovevo andare a fare la denuncia per tutto il mondo, perché così si fa in famiglia, purtroppo. Mio cugino, che devo fare? Come il tuo cugino? Filippo, ricordiamo per chi ci ascolta da casa qual è la diatriba. Allora, la diatriba ormai che va avanti da giorni e giorni è questa. Il nostro, ahimè, consulente di economia Ciruzzo Tozzi sostiene che Umberto Tozzi, innanzitutto sia suo cugino, e questo non abbiamo capito se è vero o no, ma soprattutto dice che Umberto Tozzi gli ha plagiato, gli ha copiato Ti amo e Gloria da Nunzio. Sì. A parte che non sono un consulente di economia, sono diventato perché io ho voluto crescere come artista e come tutti. Io sono fondamentalmente un artista. Ma stai zitto, che dici? Ma ci faccia il piacere. Io sono un neomelodico, un cantante, scrivo le canzoni da una vita, e quel ladro. Sì, Claudio, facciamo una cosa: in che anno hai scritto Nunzia? In che anno hai scritto Nunzia? Io? Sì. Che anno ho scritto Nunzia? Nel 1000. Allora, mi avete chiamato per fare cosa? È alle strette, okay. Vuole parlare di economia, già lo so come va a finire. In che anno? Così facciamo la fine sull'economia. No, siccome noi conosciamo l'anno in cui Tozzi ha scritto Ti amo e Gloria, ecco. Posso dire una cosa? Umberto, mi stai ascoltando? Ti acchiappo per la strada e ti sputo in faccia. Zero volgarità, okay. Zero volgarità. Sei qua. La finisci di copiare le canzoni di tuo cugino Ciruzzo. Ma basta. Che dici? Allora, scusa, ti posso fare una domanda? Se è vera questa cosa che ti ha copiato Nunzia, no? Con Gloria. Non solo Nunzia, le copia tutte. Tutte. Ah, perché non l'hai querelato? Ma tu, guarda, non hai idea. Ho fatto un'altra che si chiamava Donna Rosa e lui ha campionato. Un'altra ancora. Rispondi alla mia domanda: perché non l'hai querelato per plagio? Per pena. Per andare in mezzo alla strada, è uno di famiglia. Per ragioni umanitarie, per ragioni familiari. Perché ricordiamolo, perché non ha ma scusa, un minuto fa dicevi che se tu l'avessi incontrato per strada l'avresti sputato in faccia. Sputata in faccia così è una cosa, diciamo, che cosa può essere rispetto a quello che lui merita. No, ma scusa, tu dovevi magari fargli una denuncia, la violenza non serve a niente, diciamo. La denuncia, metti in mezzo agli avvocati, spendi soldi. Appunto, però se hai ragione vinci, non è che magari ma sappiamo come sono gli avvocati. Gli avvocati sono più bravi di lui, no? Senti, Ciruzzo, magari ma non forse è che... per la parentela, forse, no? Ah, cosa? Perché non l'hai denunciato per la parentela, io già so dove andare. Non l'ho denunciato, innanzitutto perché è un parente di famiglia, io queste cose, mia mamma si è messa in mezzo, ha detto no, non si fanno queste cose, eccetera. Cioè, tua mamma ha detto non denunciare tuo cugino Umberto Tozzi? Anche la mamma sua, ovviamente. Tua mamma sarebbe? In ginocchio, la adesso zia. Gli vuole rovinare la carriera, aveva fatto tanto, adesso è così, lasciamo stare. Mettiamoci una pietra sopra e mettiamoci. Ma Ciruzzo, poi facci capire questa parentela che non si è capito da dove nasce. Tua mamma è la zia di Umberto Tozzi? mia mamma è la zia di Umberto Tozzi. La sorella della mamma di Umberto Tozzi è cugina alla sorella della mamma di mia. Noi siamo sicuri di questa parentela, siamo sicurissimi, no? Giusto? Sembra un po' strano, un po' zigogolata. Ragazzi, mi chiamate Umberto Tozzi, per favore, così... Sì, beh, chiamato, tanto non vi risponde, la vergogna. No, no, lo stiamo chiamando, perché lo stiamo chiamando. È giunta l'ora di dirimere questa controversia. Così adesso fai una figuraccia, eh? Sì, adesso figuratevi se quello risponde a voi. No, mi dicono che è libero, sta squillando, quindi... Ah, sì? Beh, stiamo... bene, okay. Un grande è confronto. È il momento dell'economia, vai, Costa. È un momento della calla, puntuale. Vabbè. Purtroppo anche oggi ci tocca, no? Sì, stiamo per dispensare ai nostri ascoltatori di Radio 24 preziosissimi consigli su come investire il denaro grazie al nostro economista di livello Ciruzzo Tozzi. Beh, di livello. Famo finta che qui andiamo. Comunque ci hai lasciato l'ultima volta raccontando, no, un modo sicuro per investire i risparmi, no? Mi parlavi che se c'hai 1000 euro li diamo a una società. A una società e ti davano 1200 euro, giusto? Sì, diciamo a me come società, chiamiamoci società, insomma. Come chiamiamoci? Sei società, no, non siamo, sei... Siamo tre di noi. Quindi è un SPA, cioè la Ciruzzo Tozzi SPA. Tu e... Io vi dico anche i nomi degli altri, no? Sì, interessante. I tre soci, cioè siete tre soci. La compagine societaria. Sì, abbiamo io, Tonino, poi c'è Tonino Capi Chiuva. Tonino? Capa e Chiuva. E di cosa si occupa il direttore finanziario? Di Chiodo sarebbe. È l'amministratore, chi è l'amministratore delegato intanto? Il capo? È Tonino Capi Chiuva, testa di Chiodo. Quindi i nostri radioascoltatori dovrebbero investire. Affidarsi a Tonino. Beh, ecco, il tuo secondo socio chi è? È una mia amica, si chiama Nunzia. Nunzia. Nunzia. Che è la tua musa ispiratrice anche, no? Nunzia Di Maio. Nunzia Di Maio, ma parente di Maio dei 5 Stelle? O non c'è? No, non c'è nessuna parentela. Ecco. E Nunzia di cosa si occupa nell'ambito dell'azienda? Di cucina. Ma che c'entra? Che affidabilità. Ricette, queste cose qua. Fa ricette. Fare da mangiare alla gente quando viene. Quando la gente non ce la fa più che perde tutti i soldi. I soldi che vi intascate voi? Abbiamo questa assistenza, li facciamo mangiare, capito? Li diamo a mangiare, non so, uno spaghetto, una maccherona, queste cose qua. E uno dovrebbe affidare i suoi soldi, i suoi risparmi a una cuoca. A questo trio formato da Nunzia, Tonino e Ciruzzo. Esatto. Proprio... Noi andiamo, voi ci date 1000 euro. Voi. Tra un mese voi avrete 1200. Ma ci fai capire come si ottiene questo guadagno? Perché insomma, in breve tempo, come mai? Perché no? Sì, perché noi li prestiamo a un altro. A chi? E questo qua dopo un mese ce ne dà 1500. Ma quest'altro cosa fa? Come investe i soldi? Parliamo di investimenti, come, no? Come reinveste? Pensiamo a lui che deve fare qualche fatto suo, non so, deve fare uno sposalizio, deve aggiustare la casa, deve comprare, non so, una lambretta. Guarda, io mi fermerei cioè, di ditta. Ci dà 1500 euro. Se non ce le dà, se non ce le dà, interviene Tonino. Non voglio sapere come interviene Tonino. Meglio di no. Senti, no, interviene, va da lui, dice: senti, se abbiamo fatto l'investimento, insomma, queste cose qua. Guarda, io mi fermerei qui perché mi sembra che questo modo di investire i soldi non è proprio... È quantomeno opaco, Ciruzzo. Sì, mi fermerei. Incredibilmente, ragazzi, ci scrive Titta, no? Titta. Titta, oh, che bel nome, Titta. Titta, da Reggio Calabria, no? Mi mancano tanto, caro Ciruzzo, le tue poesie, perché non ce le racconti? Oddio, le poesie di Ciruzzo. Guarda, faccio una veloce? Dai. Vuoi l'introduzione? Dici il titolo. Ok, il titolo è La pioggia nella pineta. La pioggia nella pineta. D'Annunziano. Sì. Ma è romantica? Cioè non è volgare, sicuro? No, la poesia non è mai volgare. Perché tu, sì, ma tu sei volgare, quindi le poesie diventano volgari. Non vi sputo in faccia a voi, sapete perché? Perché noi ci arrabbiamo, come ti permetti, ci arrabbiamo. Perché? Dici. Per rispetto alla saliva. Guarda, che schifo. Allora, la pioggia nella pineta. Filippo, introduci. Musica. Allora. Che comandi tu? Momento di grande poesia, La pioggia nella pineta di Ciruzzo Tozzi. Cade la pioggia per sopra la gente, su chi porta la macchina senza patente. Cade la pioggia per sopra il mercato, per sopra la Vespa che ho appena lavato. Cade la pioggia sulla spiaggia di Mondragone, mentre io sto sullo scoglione. Mamma mia, che sfortuna proprio adesso. E finisce qua? E finisce. Ma scusa, ma poi, cioè, questa ma, è una delle cose più sì, orribili ma, che abbiamo mai tutto ascoltato. Questo, la pioggia nella pineta, no? Ma alla pineta tu sta. E questa è la magia della poesia. Ma quale magia? Questa è una cosa che fa schifo e basta. Per il culo. Uno si aspetta la pineta. Perché la poesia ti rappresenta, tu immagini la pioggia nella pineta e poi via, la fantasia tua viaggia e arriva fino allo scoglio. Ah, è un poeta evocativo. Immaginario, cioè, immaginifico. A me viene la pelle d'oca. Mi vengono i brividi. Cioè, è una roba è incredibile, sì. Però come riscuota un grande successo, sì, Ciruzzo, no? Ciruzzo poeta. Ciruzzo poeta, e noi dovremmo vergognarci che diamo spazio a certa gente a Radio 24. Infatti mi sa che voi questo dove, dovete vergognare tante altre cose, ragazzi. Infatti, ma che c'è da dire? Che c'è da dire? Cosa vorresti dire nei nostri confronti, scusa? No, niente, cioè, guarda che la pioggia nella pineta non te l'avrebbe, sì, fatta mai dire nessuno, cioè solo due pazzi come noi. Ma diciamo, vedo. Tu sai che rischiamo il posto di lavoro per colpa tua? No, no, che no, rischiamo? Voi lo sapete, ce l'avete ancora per merito mio. No, no, che rischiamo? È già saltato il posto. Dopo... già saltato, già... infatti vedo la polizia che gira non qui intorno. Parlo io con il vostro direttore, tranquilli. Ah, vabbè, la stiamo in una botte di ferro. Guarda, se non, ah, la ecco, smetti, se non la smetti, visto che è periodo di tasse, no? E noi siamo, beh, una radio a prevalenza economica, io ti chiamo la Guardia di Finanza, te la faccio venire sotto casa. Ma sempre con questa storia, ci fa un baffo la Guardia di Finanza. Ah sì? Ah sì, allora, perché tu paghi tutte le tasse? Ma no, perché non mi trovo quando viene, mica per questo. Ah, ti nascondi. Vabbè, guarda, chiudetemi il collegamento, sì, con Ciruzzo. A mai più, Ciruzzo. Anche per oggi è finita, giusto? Anche per oggi è finita, ahimè, oppure per fortuna, decidete voi. Se vi sentite fuori posto, se avete da raccontarci storie da fuori posto, scriveteci a appunto ifuoriposto@radio24.it, mandateci un messaggio in segreteria allo 02465 24 182, oppure SMS e WhatsApp al 349 23 86 666, oppure la nostra pagina ufficiale Facebook, I Fuori Posto. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo puntuali domani mattina alle ore 10.